Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, benvenuti al nostro appuntamento del sabato e, come sapete, anche della domenica con le riviste italiane e straniere. Guardiamo tra i settimanali, i mensili naturalmente, non solo appunto di lingua italiana, diamo delle indicazioni, qualche volta dei consigli proprio di lettura, qualche altra volta delle curiosità. E quindi proprio da una curiosità vorrei cominciare stamattina, una cosa un po' leggera, come dire, eppure mi immagino appunto, mi auguro interessante per molti, anzi per molte, perché penso che non tutti sappiano che esiste l'algoritmo per i tacchi delle signore. Qual è la corretta misura del tacco da portare? Ecco, naturalmente c'è stato qualche professore che si è provato a misurare la cosa. Il signore in questione si chiama Paul Stevenson, che ha individuato proprio una formula ideale per trovare qual è l'altezza giusta dei tacchi da portare. Lo spiega Focus nel numero di questo mese: tacco 12 o ballerine, è una questione matematica. Allora, sappiano le signore in ascolto che possono provare a calcolare l'altezza del tacco ideale con una formula individuata appunto da Paul Stevenson. Paul Stevenson è un professore all'Istituto di Fisica di Londra. Allora, la formula non è semplicissima e spiegarla in radio naturalmente è ancora più, rende tutto ancora più difficile. Vi posso dire che se voi andate poi sul sito di Focus trovate anche questa formula scritta in ordine, quindi potete poi con calma calcolare. Capisco, magari a quest'ora del mattino può essere non così semplice, però io provo a leggervela. L'altezza del tacco è uguale a questa formula: Q per, aperta parentesi, 12 più 3S fratto 8, chiusa la parentesi. Non è lunghissima, ma va spiegata così. Allora, l'altezza deriva praticamente da una serie di fattori. Il fattore sociologico che si cerca di ricavare. Il fattore sociologico vuol dire la misura che le probabilità, misura delle probabilità che quel tipo di scarpa, quell'altezza di tacco faccia effettivamente girare la testa agli uomini. Non so poi come si possa mettere dei numeri al posto di queste lettere, ma insomma forse le signore e signorine che sono più esperte di matematica di quanto non lo sia io riusciranno ad attribuire dei valori. Capite quante sono le probabilità che l'altezza del tacco faccia incuriosire, faccia appunto girare la testa agli uomini. Poi bisogna indicare anche gli anni di esperienza con i tacchi alti, che naturalmente sono una variabile importante, cioè se si portano i tacchi alti da più tempo presumibilmente si è più in grado di portarli con maggiore grazia, con meno difficoltà, e quindi di aumentare di nuovo questo fascino. Poi bisogna calcolare, del resto la formula di un matematico ha tenuto conto un po' di tutto, il costo delle scarpe e poi l'età delle scarpe. Non viene trascurato neanche un fattore particolare, che è quanti bicchieri di alcol poi bisognerà bere stando su questi tacchi, immaginando naturalmente che una volta vestiti dei tacchi particolarmente alti si debba poi partecipare a una serata, un invito mondano, e quindi si debba poi consumare anche chissà qualche cocktail, qualche bevanda alcolica. È una cosa che naturalmente va considerata. In questo modo si ricava appunto questa formula del tacco, dell'altezza ideale dei tacchi delle signore. Una cosa un po' leggera questa mattina per cominciare, semiseria diciamo così. Ripeto, trovate tutto poi spiegato sul sito di Focus, www.focus.it. Una cosa meno leggera ancora da Focus, ma tutto sommato non così terribile come può apparire a un primo ascolto. La guerra più lunga che si sia mai combattuta è la guerra più corta che si sia mai combattuta. È una delle curiosità che i lettori pongono a Focus, sottopongono a Focus, e infatti si trova nella parte del mensile in cui ci sono appunto questo tipo di domande e risposte. Allora, innanzitutto, la guerra più corta della storia, dovete sapere che durò 38 minuti, fu combattuta il 27 agosto del 1896 e l'hanno combattuta, si fa per dire, Inghilterra e Zanzibar. Zanzibar all'epoca era un protettorato britannico. Al 38esimo minuto, al 39esimo minuto, gli zanzibarini si dichiararono sconfitti e quindi la guerra insomma finì con una notevole celerità. La guerra più lunga invece è durata, diciamo sarebbe durata, perché poi Come capirete dalla vicenda, si tratta più che altro di una guerra un po' trascurata, 335 anni. Perché 335 anni? Perché a un certo punto i Paesi Bassi e le isole Scilly, che sono delle isole al largo della Cornovaglia, scesero in guerra l'uno contro l'altro. Perché? Stavamo nell'epoca dei sostenitori della guerra civile inglese e nel piccolo arcipelago delle Scilly si erano rifugiati appunto i sostenitori del re Carlo. I Paesi Bassi invece erano favorevoli agli oppositori, cioè coloro che sostenevano il Parlamento guidato da Cromwell, da Oliver Cromwell. Cosa successe? Che i Paesi Bassi inviarono una flotta per combattere la flotta dei rifugiati invece che stavano con re e dichiararono guerra alle isole. Allora le isole facevano parte del Ducato di Cornovaglia. Tuttavia, a un certo punto, alla fine del 1651, le Scilly caddero poi nelle mani dei parlamentaristi, quindi di fatto insomma, non ci fu bisogno di questo intervento bellico da parte dei Paesi Bassi, e tanto che i Paesi Bassi si dimenticarono letteralmente di essere in guerra con queste isole. A un certo punto però qualcuno si è accorto che le isole Scilly erano formalmente ancora in guerra con i Paesi Bassi. Allora l'ambasciata olandese a Londra confermò che effettivamente non era mai stata siglata la pace e così si firmò finalmente un trattato di pace il 17 aprile del 1986, cioè 335 anni dopo la dichiarazione di guerra inviata appunto alle isole Scilly. Non sono questioni belliche, ma sono questioni talvolta difficili, talvolta conflittuali, quelle che invece riguardano la scuola. C'è una bella inchiesta su Nouvel Observateur, settimanale francese, sul poco prestigio dei professori in Francia. E la questione incuriosisce, naturalmente ci ha incuriositi anche perché spesso leggiamo sui settimanali, sui mensili italiani, un po' lo stesso tenore di lamentele. Allora, senza entrare magari in dettagli che possono riguardare di più il sistema scolastico francese, c'è da dire che si registra una preoccupante disaffezione proprio appunto in Francia nei concorsi per diventare professori. Si è scesi a 18.000 da 35.000 che erano pochi anni fa ogni anno. Questo riguarda appunto gli insegnamenti fino diciamo alla scuola media. Se si passa poi ai licei, comunque c'è una disaffezione uguale, 21.000 anziché 38.000. E quindi da un anno con l'altro via via ci sono sempre meno candidati, meno persone che hanno voglia di diventare professori. Come mai? I motivi sono tanti, soprattutto viene messo in cima a tutti quanti una perdita di prestigio, oltre che a una difficoltà proprio di retribuzione. Ma la retribuzione, va detto, non sembra essere, nell'articolo di Nouvel Observateur, il primo motivo che allontana gli aspiranti professori dalle cattedre. In un box che accompagna l'articolo si spiega appunto che essere professore è un po' troppo poco per me, e poi ci sono naturalmente le testimonianze degli studenti che molto crudelmente dicono ai loro professori: io non vorrei mai diventare un professore, è troppo difficile tenere una classe di adolescenti, e comunque insomma non c'è alcun prestigio. Questo, ripeto, naturalmente succede in Francia, ma non siamo così sicuri che questo tipo di lamentele non possa essere condiviso anche dai professori nel nostro paese. Anche perché poi le cronache ci riportano delle vicende in cui la perdita di prestigio è tangibile. Ad esempio, su Donna Moderna questa settimana Raffaele Morelli, che è uno psichiatra e tiene una rubrica proprio su Donna Moderna, si occupa di un caso che forse avete letto sulle cronache dei giornali. Uno studente di un istituto tecnico milanese è stato sospeso con un 5 in condotta, perché lui stava chiacchierando, l'insegnante lo ha richiamato, questo studente ha ribattuto: ma tu che vuoi? E con un tono appunto come se avesse a che fare con un coetaneo. Da questo Morelli dice: viviamo in un'epoca di noncuranza, con le cose che sembrano tutte uguali pensiamo allora di poterci rivolgere a chiunque con lo stesso tono, invece a scuola ci vuole la giusta distanza, non il tuo ad esempio ma il lei, perché in fondo non siamo né amici né parenti. Per imparare è indispensabile avere stima e rispetto per l'insegnante che ne sa di più e ha qualcosa da trasmettere. Sono sempre le parole di Morelli che traggo, ripeto, da Donna Moderna. questo crea poi nel cervello anche le basi per l'apprendimento. L'autorità quindi è in un certo senso il perno di tutto, quindi sbagliano i genitori che non rimproverano i figli quando parlano male o addirittura insultano i docenti. Quella risposta, ma tu che vuoi, detta al professore, nega il valore della scuola, in un certo senso, spiega Morelli, che è fatta poi per imparare a vivere. E i genitori devono spiegare ai ragazzi perché è necessario alzarsi in piedi quando un insegnante entra in classe, perché sta entrando un maestro di vita. Se perdono i maestri, danno del tuo a chi che sia, alla fine si adeguano alle leggi del branco e non imparano più niente da nessuno. Questa l'indicazione di Morelli, che coincide con Lima un po' con la perdita di prestigio che leggevamo a proposito degli insegnanti francesi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo visto questo rimbalzo un po' tra Italia e Francia a proposito degli insegnanti e del prestigio degli insegnanti e della loro condizione appunto sul posto di lavoro nelle scuole. C'è stata un'altra notizia francese che ha molto incuriosito diversi settimanali, ne selezioniamo due, ma abbiamo visto la stessa notizia anche commentata altrove. Su Newsweek si parla appunto di baby boom, del ritorno alla crescita della natalità in Francia. Lo stesso argomento poi viene affrontato, ripeto, anche altrove. Che cosa è successo? Che secondo gli ultimi dati ci si è accorti che la Francia ha avuto una inattesa ripresa della natalità, una sorta di mini baby boom che sta crescendo. Le donne francesi sono quelle, spiega Newsweek, che non solo hanno in questo momento il più alto tasso di natalità, più di due figli a famiglia, che non si era mai visto tra l'altro dal 1973, quando appunto eravamo in epoca di shock petrolifero e c'erano anche problemi economici paragonabili in un certo senso a quelli odierni. Ma tra l'altro ci sono state due indicazioni particolari: da una parte non sono solo gli immigrati, come succede altrove, come ad esempio da noi, a sostenere il tasso di natalità francese, ma anche il fatto che c'è un allungamento insomma dell'età fertile, e questo fa sì che appunto può contribuire a un aumento della natalità. Lo stesso tema tra l'altro viene affrontato proprio da Donna Moderna, da Antonella Boralevi. La Boralevi si pone la domanda centrale, che è già nel titolo: perché le francesi fanno sempre più figli, le italiane sempre meno? E spiega appunto l'inizio di questo lungo articolo: in Italia calano le nascite, la Francia invece sta vivendo un nuovo baby boom. Qual è la ragione? Merito, spiega appunto il sommario, di una massiccia politica di aiuti alla maternità, ma non solo, perché secondo la Boralevi anche il nostro modo di trattare con i bambini non aiuta la natalità, perché, spiega appunto la Boralevi, da noi un bambino non è trattato come un bambino, è un bene prezioso da venerare sul quale proiettiamo tutti i nostri desideri e aspirazioni. Allora è un gioiello troppo impegnativo per farne più d'uno. Torniamo a questi dati francesi, spiega sempre Donna Moderna: le francesi sono tornate a fare figli nel 2010, 2,01, questo dice la statistica a testa, non succedeva appunto dagli anni del baby boom. Fanno figli a 30 anni, ma fanno anche figli intorno ai 40, fanno figli dopo i 40 e fanno figli proprio loro, le francesi native, non le immigrate come accade da noi. A questa incredibile fioritura di parti le straniere contribuiscono solo per lo 0,6%. Ricorda Boralevi, certo in Francia l'aiuto dello Stato è notevole. Questo è un tema che noi abbiamo trovato molte volte, abbiamo avuto occasione molte volte di segnalare proprio dalle riviste, la poca attenzione del fisco e in generale anche dei servizi per le famiglie, per la natalità in Italia. Spiega Boralevi, ci sono 120 miliardi di euro ogni anno per la politica familiare. Diventano poi che cosa? Asili gratis per tutti a partire dai 3 anni di età, sostegni domestici, aiuto economico per la casa, naturalmente meno tasse per chi ha più figli, e poi contributi di Stato per pagare le babysitter. I francesi però si lamentano lo stesso, dicono che non basta. Intanto fanno sempre più figli, di più. Le francesi che diventano madri sono in massima parte donne che lavorano. Di più, aggiunge la Boralevi, questi bambini sono stati poi concepiti nel cuore della crisi del 2009, quindi corrispondono a un periodo di ansia, di paura, di licenziamento, comportamenti, di aumento dell'aggressività dentro casa, per strada, sul lavoro. La situazione da noi in Italia è diversa sul piano del sostegno economico, ma non su quello del clima generale. Anche noi abbiamo paura del futuro, anche noi facciamo figli sempre più tardi, anche noi li facciamo da mamme lavoratrici, però rispetto alle francesi ne facciamo sempre meno. E qui la Boralevi introduce una digressione di tipo più storico per inquadrare appunto le cause che va a spiegare. Negli anni 50, dice, l'Italia era ancora un paese agricolo, i figli erano braccia da mandare nei campi, erano la garanzia della sopravvivenza, erano in un certo senso anche gli schiavi dei padri padroni. Più figli avevi, più eri povero. Poi venne il boom degli anni 60, le cose cominciarono a essere differenti, si facevano figli perché si diventava ricchi, si facevano figli perché si credeva nel futuro, e arrivò appunto il baby boom, cioè quel periodo di grandi natalità che abbiamo avuto negli anni 60. Con il femminismo degli anni 70 le donne si ripresero il diritto di fare figli, la pillola le liberò dall'obbligo, il numero dei nuovi nati cominciò a diminuire, crollando, come è successo esattamente in Francia, come hanno visto succedere in Francia, dopo la crisi del petrolio del 1973, senza più risalire, ma con una novità rivoluzionaria: i figli, che non erano più le braccia da mandare nei campi, perché l'Italia era diventata intanto un paese industriale, diventarono un lusso. Le famiglie numerose allora non erano più quelle povere, ma quelle veramente ricche, e solo i ricchi facevano e fanno 3, 4, perfino 5 figli, gli altri non ne fanno o si fermano a uno. Naturalmente le tesi della Boralevi sono per certi versi una semplificazione estrema, non è detto che poi non ci siano famiglie numerose anche tra redditi non molto alti, però questa è la sua ricostruzione. Da noi però il problema è soprattutto un problema di come trattiamo questi figli, perché dice, da noi adesso il figlio riceve le chiavi di casa a 10 anni, perché quando torna da scuola la casa è vuota. Questo unico figlio sempre più spesso non ha due genitori, ne ha uno solo. Sempre più spesso ci sono donne quarantenni che decidono di avere un figlio da un uomo, ma poi lasciano questo uomo per strada, portano da sole avanti la loro gravidanza. Questo unico figlio diventa, insieme alla loro realizzazione di donne, prima che sia troppo tardi, prima che la natura dica di no. E così si arriva ai bambini italiani, appunto, questo 1, 1, qualcosa, uno quasi sempre solo, uno che però poi deve diventare il più bravo in classe, il più bravo nella vita, uno che ha un'agenda piena di impegni come quella dei genitori, però a 5 anni, uno che capisce per istinto che può fare quello che gli pare e lo fa, uno che vittimizza i genitori, uno che spesso è triste, siccome la tristezza dei figli compete ai genitori, ma i genitori hanno da fare nel lavoro, nel loro privato caos sentimentale, la tristezza di questo unico bambino viene demandata e affidata allo psicologo. Quanti ce ne sono di bambini in terapia in Italia? Più di quelli che si potrebbe pensare. In America danno loro lo psicofarmaco, si chiama Ritalin, e il Ritalin adesso è diventato un problema sociale. Diventerà così anche da noi? Intanto le francesi, che sono come noi, appartengono alla nostra stessa cultura e hanno certo molto più sostegno statale, fanno tanti figli, ma soprattutto li trattano in un modo completamente differente. Per loro i bambini restano bambini, gli si dà un'educazione, gli si danno degli ordini, si mettono a letto all'ora che decidono i genitori, non a quella che decidono loro. In Francia non si vedono bambini ciondolanti sulle sedie dei ristoranti fino a mezzanotte, non si vedono bambini che impongono acquisti e scelte ai genitori. La conclusione è: i bambini in Francia sono bambini, da noi diventano l'incarnazione di tutti i nostri fantasmi. Beh, non è inutile allora a questo punto ricordare che proprio il domani, 6 di febbraio, tra l'altro si celebrerà la giornata nazionale per la vita, se ne occupa tra l'altro Famiglia Cristiana, se vedete Famiglia Cristiana di questo numero già nella copertina ricorda che c'è questa 33esima giornata nazionale. Poi all'interno ci sono tutta una serie di considerazioni sulla poca natalità e anche sulla diritto alla vita, naturalmente anche sul problema dell'aborto. Tra l'altro sul problema dell'aborto, visto che abbiamo parlato di Francia e Italia, la Francia ha comunque un tasso di abortività molto più elevato del nostro. Noi ci collochiamo in un periodo che viene riportato in una tabella di Famiglia Cristiana 2005-2009 intorno al 10,3 tasso, come tasso di abortività ogni 1000 donne di età tra i 15 e i 44 anni. La Francia, in Francia questo stesso valore è più che 12, doppio, all'incirca doppio, perché è il 17,4. Dei paesi con il più alto tasso di abortività, appunto, vedendo questa tabella di Famiglia Cristiana, sono la Russia, dove il valore raggiunge il 40,3, poi la Romania 31,3 e poi decisamente più indietro a 21,3 la Svezia. Il valore più basso riportato in tabella è quello della Svizzera con il 6,4. Con questa ultima indicazione abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione per questa mattina. Il Magazine 24 vi dà appuntamento a domani mattina. Grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia con me, grazie anche come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani.